So on the second evening of a retreat, it's really it's just a time to for a lot of us just to revise all the all the stuff around the hindrances. Quindi il secondo giorno di un ritiro è utile per tutti noi, per la maggior parte di noi, rivedere un attimo tutto ciò che riguarda gli ostacoli. These hindrances, as they're called, are what take us, are what take the mind away. Quindi questi cosiddetti ostacoli sono ciò che porta lontano la mente, che distoglie la mente. In that sense they're hindrances. Ed è in questo senso che sono considerati degli ostacoli. But of course when they become objects of our investigation they become our teachers. Ma ovviamente quando poi diventano oggetti della nostra investigazione, beh allora sono i nostri insegnanti. These hindrances that take away have deep roots within our psychology. Quindi questi ostacoli che appunto ci trascinano via hanno delle radici profonde nella nostra psicologia. And even just before we become fully liberated by this weekend. E anche proprio fino al momento prima, l'attimo prima di diventare pienamente liberati, cioè alla fine di questo weekend, there is still some restlessness. C'è sempre comunque della irrequietezza nella mente. And this restlessness suggests that right unto the point of our liberation, these hindrances are always there. Quindi quel fatto che ci sia ancora questa irrequietezza fino proprio alle soglie della liberazione sta a indicare che questi ostacoli sono sempre lì, sempre presenti. But by that time, hopefully, they have very little energy. Ma se arriviamo a quel punto, ovviamente avranno poca energia. There's a very interesting part in the scriptures as to what happens to the Buddha after he's become liberated. C'è una parte interessante nelle scritture che tratta di cosa è capitato al Buddha dopo che ha raggiunto la liberazione. It is said that the evil one Mara decided to tempt him. Allora si dice, o lì è scritto che il malvagio Mara è arrivato per tentarlo. Mara is much in the same way as I think Islam thinks of the devil. Mara corrisponde molto a quello che ritengo che l'Islam consideri il diavolo. It's what is actually attractive. Ed è ciò che effettivamente attira, attraente. But it draws you away from the spiritual life. Ma è come se ti portasse via dalla via spirituale. The tempter. È il tentatore. And he sends his three daughters. Mara manda davanti al Buddha le sue tre figlie. The first is sensual desires. La prima corrisponde ai piaceri, ai desideri sensoriali, sensuali. The second one is sexual desires. La seconda invece sono i desideri sessuali. And the third one is only for those who don't know. E la terza è solo per quelli che non lo sanno. What would be the third? Chi sarebbe la terza figlia di Mara che viene a tentare il Buddha? Does anybody know? Qualcuno lo sa? Ah. Boredom. La noia. La noia. La noia. Sì. You wouldn't guess, but la noia. Non sareste indovinato. So remember, boredom is one of our big hindrances. Quindi ricordate che la noia è una delle nostre grandi dei nostri grandi ostacoli. And the first two we can understand easily, but remember, boredom is what we feel when what used to give us pleasure no longer gives us pleasure. Quindi i primi due sono facili da capire, ma la noia è ciò che una volta ci dava piacere, non ce ne dà più. Mm. And yet we want the same. E tuttavia noi continuiamo a volerlo. Ah. So that's why we have a whole massive industry developing the different tastes of chocolate. Ed è per questo che abbiamo un'industria così massiccia, così importante, che cerca di sviluppare i diversi gusti del cioccolato. And to walk into any supermarket to their biscuit count, to their biscuit part is astounding. Ed è incredibile se entrate in un supermercato e vi dirigete verso il settore dei biscotti. Yeah. Eventually one chooses always what one likes anyway. Alla fine uno comunque sceglie sempre quello che gli piace. Although you spend probably 10 minutes finding out whether there's something even better. Anche se magari passate 10 minuti solo a cercare di scoprire se c'è qualcosa di migliore. So this is boredom, you say, driving us to seek excitement. E quindi questa è la noia che ci spinge a cercare un maggior eccitamento, una maggiore emozione, piacere. After 7 years, the daughters go to Mara, their father, and say, "It's no good, it's not working." Dopo ben 7 anni, le figlie di Mara vanno dal padre e dicono, "Beh, non ha funzionato." Wrong. Sbagliato. Sì. After 7 years. Mara tells his daughters it's no good, it's not working. Ah, quindi dopo 7 anni è Mara che dice alle figlie non funziona, non serve a niente. And they say no, we can do it, just give us more time. E loro gli dicono no, possiamo farcela, dai, dacci ancora un po' di tempo. And he says no, he says the Buddha sees me. Lui risponde loro, no, perché il Buddha mi vede. Ah, the Buddha sees me. See. So, in our meditation, our job is to see these entrances. Quindi nella nostra meditazione il nostro lavoro è vedere questi ostacoli. Just as a little side topic for those of you who know about the four paths and fruits. E quindi solo per così parlare di qualcosa laterale, per coloro che conoscono questa teoria dei quattro sentieri e i quattro frutti dei quattro sentieri. So these are the four stages of liberation. Sono i quattro stadi della liberazione. When one first perceives one of the three characteristics deep enough, there is a certain release from some of the shackles. Quindi quando uno vede chiaramente almeno una delle tre caratteristiche dell'esistenza, allora c'è una sorta di liberazione di alcune dei legami che ci tengono l'unità samsara, no? Delle catene, diciamo. Fetters, what's the translation of fetters? Sono come le le manette, insomma, quello che si tiene. I legami. Sì, quelli che ci tengono legati al samsara, ci tengono in uno stato di schiavitù, come fossero appunto delle manette. And the first level, the person no longer believes that rites and rituals will deliver liberation. Quindi al primo stadio di liberazione la persona non crede più che sarà grazie a dei riti, dei rituali che possiamo ottenere la liberazione. Because they have glimpsed Nirvana, they have no doubt in the Buddha's teachings. Poiché hanno avuto una, come dire, un piccolo assaggio del Nirvana, allora they have a glimpse of Nirvana, so they know. They have no doubt in the Buddha's teachings. Quindi non hanno più nessun dubbio riguardo agli insegnamenti del Buddha. And they have pierced through the personality view of, e hanno in qualche modo perforato, diciamo, la visione di una personalità. These people only have to be reborn as human beings 7 times. Queste persone che raggiungono questo primo stadio hanno solo più 7 rinascite come esseri umani. In the second insight, the second path and fruit, sì. Both sensual desire and hatred is lessened. Nel secondo stadio di liberazione si vengono indeboliti sia i desideri sensoriali che l'odio. They only have to come back once. E questi ritornano come esseri umani solo una volta. Ah. And the third, the desire for sensual pleasure and all the aversion associated with sensual pleasure disappears. Nel terzo stadio tutto l'attaccamento ai desideri sensoriali e l'avversione legata ai tutti i piaceri sensoriali viene completamente distrutta. So because there's now nothing at this level of existence which attracts them, they don't have to be reborn here. Quindi siccome a questo livello di esistenza non c'è più nulla che li attiri, che li attragga, allora non hanno più bisogno di essere rinati in questo esseri umani. Sì, and they stay in the happy realms. E quindi loro rimangono, dimorano in questi regni felici, diciamo, queste sfere elevate. Sì. Sukkavati. And the ones who are fully liberated, they drop their attachments to these very fine, absorbed, beautiful states of mind. Quelli che sono pienamente illuminati, allora eliminano, fanno cadere, insomma, tutto questo attaccamento agli stati mentali meravigliosi che derivano dagli assorbimenti. Mm. And the restlessness goes. E se ne va anche l'irrequietezza. And conceit. E anche la presunzione, questa eccessiva credenza in un sé, no? Nel proprio sé. No, conceit. Conceit is comparison, sì, I am better than you. Sì, quindi la presunzione nel senso di dire io sono meglio di te, quando si fa un confronto con gli altri. Mm. And the fundamental delusion. E anche l'illusione fondamentale. Mm. So these beings are not reborn again. Quindi questi esseri non rinascono più in nessuno. But we mustn't confuse that with annihilation. Ma non dobbiamo confondere questa completa liberazione con l'annichilamento, no? Il nichilismo. No? L'annichilimento. L'annichilimento. Difficult word. Now the reason I mention all this is because those of you who know, it is normally taught that the path and the fruit happen consecutively. The path is seeing, and then you get the benefits. Il motivo per cui parlo di queste cose è perché alcuni di voi già conoscono la teoria, diciamo, che dice che esiste il sentiero e poi il frutto del sentiero, sono conseguenziali. Quindi prima si vede attraverso il sentiero e poi si gode dei benefici di questo ingresso nel sentiero. And the benefits are losing these fetters. E i benefici sono proprio il fatto di perdere questi attaccamenti, questi legami che ci tengono nel samsara. But there is in the scriptures evidence that in fact you have to go twice through these four gates to get the benefits. Ma nelle scritture ci sono delle prove, diciamo, che dicono che bisogna entrare due volte in queste specie di porte, diciamo, queste quattro porte, per poter poi ricevere i benefici. And the story of the Buddha's 7 years of temptation is telling us that after his liberation there was still some conditioning that had to be worn away. E quindi il fatto che il Buddha fossero passati ancora 7 anni, diciamo, dopo la liberazione del Buddha, sta proprio a dimostrare che forse c'era ancora un po' di condizionamento che doveva in qualche modo esaurirsi. But by that time he did not fall into those temptations. Però comunque in questo periodo lui non è caduto in queste tentazioni, non ha ceduto alle tentazioni. The Buddha sees me. Mara, sì. No, the Buddha sees me. Il Buddha mi vede. Ah. So our job with these hindrances is to see them. Quindi il nostro lavoro con questi ostacoli è di vederli. So the first There are five of them, for those of you who are not clear. There's those to do with sensual pleasure. Quindi questi ostacoli sono cinque. I primi hanno a che vedere con i piaceri sensoriali. Those to do with all the aversions and hatreds. Poi il secondo ha a che fare con tutte le avversioni e l'odio. All the dullness and lethargy. Terzo è questo stato di torpore, letargia. And then there's all the restlessness. Poi c'è tutta l'irrequietezza. Where there's also included guilt and shame. E qui questo comprende anche il senso di colpa, la vergogna. And then there's doubt, skeptical doubt. E poi l'ultimo è il dubbio scettico. So each of these presents us with a problem and we have to find the skills on how to deal with it. Quindi ognuno di questi ostacoli ci presenta con un problema, noi dobbiamo trovare il modo di gestirlo, di affrontarlo. Although they're very similar, these techniques are very similar. E queste tecniche sono molto simili una all'altra. So when you find yourself getting involved in something very pleasurable. Quindi quando vi trovate coinvolti in qualcosa di molto piacevole. Planning, a holiday, romance. Quindi per esempio quando state organizzando una vacanza oppure vi perdete in storie romantiche, diciamo. Storie romantiche. So when we're lost in these dreams, you see, then you, as soon as you wake up from the dream, you see, you have to point to the attitude which is driving it. Quindi quando ci accorgiamo di essere persi in questi sogni, nel momento in cui ne usciamo, dobbiamo fare molta attenzione all'atteggiamento che abbiamo, all'attitudine che in qualche modo li provoca, li produce. So supposing now I have a romantic dream, you see. So when I wake up, I come into the body. Quindi immaginiamo di avere questo sogno romantico. Allora, nel momento in cui mi risveglio, torno nel corpo. As I come into the body, I might say, use a word like romance, romance. Torno nel corpo, potrei utilizzare una parola, no? Un'etichetta mentale, per esempio. In italiano romance è più una storia d'amore. Storia d'amore. And as I come here, I can see that I have fallen in love with my imaginary woman. E quindi quando io torno qui potrei vedere che io mi sono innamorato della mia donna immaginaria. Che roba. So I stay with this, you see, just the feeling of it. E quindi io rimango con questa cosa, con solo questo sentire, no? Sensazione. Now, you have to be careful because a part of my mind will want to go back. Quindi qui bisogna fare attenzione perché una parte della mia mente vorrà tornare là. So I am in the body feeling these romantic feelings. Sono nel corpo e sento tutti queste sensazioni, diciamo, questi sentimenti romantici. And I can feel this energy leaking away. E sento questa energia che è come se stesse uscendo fuori, no, lentamente. I have to keep my eye on this. This is Mara. Quindi devo tenere d'occhio questo processo, perché questo è Mara. This is the indulgence. Questo è l'indulgere. This is the wanting, desire. Questo è il volere, il desiderio. Second noble truth, this is the cause of suffering. La seconda nobile verità, è questa la causa della sofferenza. If I can stay there long enough for this desire to exhaust itself. Quindi se io riesco a stare abbastanza a lungo in questa posizione, finché questo desiderio si esaurisce, then the mind will steady in upon these feelings. La mente si stabilizzerà su queste sensazioni. And because there's no engine underneath it, these feelings will begin to die away. E siccome non c'è un motore che li tiene vivi, diciamo, che li alimenta, allora anche queste sensazioni un po' per volta svaniranno. Now when they die away, to my surprise, loneliness comes up. E quando svaniscono, con mia sorpresa, sorge la solitudine, il senso di solitudine. That's not the same as solitude, loneliness. È sentirsi soli, sarebbe. Sì. Because in English you have loneliness and solitude. Exactly. So you feel, and then you begin to see this escape route was because you didn't want to see this loneliness. Allora poi uno comincia a capire che questa via d'uscita nasceva dal fatto che uno non volesse entrare in contatto con questa solitudine. So now we have to stay with the loneliness. E adesso quindi dobbiamo stare con questo senso di solitudine. And when we stay with the loneliness, we can feel the energy wanting to escape again. E quando stiamo con questa solitudine, sentiamo l'energia che vorrebbe portarci di nuovo fuori. So I'm very scappare. Much sì, scappare. So I'm very much interested in this energy. Quindi sono molto interessato a questa energia. I can still feel the loneliness and I can also feel this energy. Quindi io sento sia la solitudine che questa energia. I wait till this energy dies away. Aspetto finché l'energia muore, svanisce. Yeah, svanisce. I come back to the loneliness. E ritorno alla solitudine. It gets worse. Ma peggiora. Again, I want to escape. E di nuovo voglio scappare. Ah, but I notice Mara. Io noto che questa è Mara. I see Mara. I keep coming back to the loneliness. E quindi io la vedo Mara, lo vedo e continuo a tornare alla mia solitudine. See? And I can hear in the background my mind telling me how useless, how nobody can love me. E continuo a sentire questa voce nella mente che dice: ah, sono un essere inutile, nessuno mi vuole bene. So now this is Mara. Adesso è questa Mara. Ah, reinforcing my loneliness. Che rinforza la mia solitudine. Yes, indeed, I am worthy of being hated and unloved. Sì, effettivamente io non sono degno di essere amato. Ah, so I note hating, self-hating. E allora a questo punto noto l'odio, no? L'odio verso se stessi. And I come back to my loneliness. E torno alla mia solitudine. Slowly the loneliness begins to diminish. Quindi lentamente questa solitudine comincia a diminuire. And if I stay there long enough, there arises. Okay. Se ci rimango abbastanza lungo, sorge che cosa? Che cosa? No, solitude. Proprio solitudine. Ah, ok, qui c'è un problema di traduzione, perché loneliness è questo sentirsi soli in senso negativo, diciamo, invece solitude è più invece un senso del essere soli, avete capito? Ma non felice con sé. Felice senza aver bisogno di altri, essere appagati comunque della propria solitudine. There must be two words. No. Non so se in italiano ci sono due parole per questi diversi stati. I mean, loneliness and solitude are very different, eh? Perché sono due stati. No, no, only think maybe Italians don't suffer loneliness. Forse per gli italiani non esiste la sofferenza legata alla solitudine. Beati. Ma non conoscono la solitudine nel secondo senso. They might not know solitude in the second sense. Well, how would you say that? Quindi voi come lo esprimereste? Questo stato di when you are completely happy and fulfilled, just being on your own. Quando siete completamente appagati e felici di stare per conto vostro, da soli. So this is solitude. Questa è quella che in inglese si chiama solitude. Sì. Gautam, you might know. Dovrebbe essere tradotto con sicurezza di se stesso. Diverso, eh? Self-confidence. In cristianesimo si parla di solitudine abitata. Ecco, solitudine abitata. No, that's good. Una solitudine che è abitata, nel senso buono, si dice. Sì, sì. Okay. It's any saint worthy of their salt must have this. Every saint. Any saint worthy of their salt. Any saint who is a saint must have this solitude. Sì, perché ogni santo degno di questo nome deve avere questo tipo di solitudine abitata. Sì, nel senso. Sì, a livello mistico volevo dire, nel cristianesimo mistico, nel linguaggio mistico. Sì, sì. Ma in Buddhist understanding, it's not particularly mystical. It's there for us to develop. You see. Quindi secondo le teorie buddiste non è una cosa necessariamente mistica, ce l'abbiamo tutti, è solo lì che deve essere sviluppato. So whenever we have something which we desire, we have to be very careful not to indulge the thinking mind. Quindi ogni volta che c'è qualcosa che noi sentiamo di desiderare, dobbiamo stare molto attenti a non indulgere nella mente pensante. Because what we realize is that emotions develop themselves through stories. Perché quello di cui ci rendiamo conto è che le emozioni si sviluppano attraverso le storie. Sì. Once we really grasp that, we're very afraid of the mind wandering. Quando veramente lo afferriamo, abbiamo poi paura della mente che divaga. And it's the same with all the other hindrances, except dullness and lethargy. E questo vale per tutti gli altri ostacoli tranne quello della letargia, del torpore. Hmm. So we've talked about loneliness and all that, but even in ordinary daily life, somebody says something which irritates you in the morning. Quindi abbiamo parlato della solitudine, ma ci sono anche situazioni nella nostra vita quotidiana. Per esempio, qualcuno ci dice al mattino qualcosa che ci irrita. Ah. And at first you dismiss it, you know. That's the way they are, you know. All'inizio non ci fate caso, dite vabbè, è fatto così. Mm. But when you have your morning tea or coffee, you see. Però poi prendete il caffè o il tè del mattino e cominciate a rimuginarci sopra. And by lunchtime, e quando arrivate a pranzo diventa ancora peggio. Yeah. In the evening you have to take an aspirin. E alla sera avete bisogno di un'aspirina. This person only insulted you once, but you made him insult you 1,000 times. Questa persona magari vi ha insultato una volta sola, ma voi avete fatto sì che vi insultasse forse 1,000 volte in una giornata. Sì. And all the time the anger is getting worse and worse and worse. E tutte le volte la rabbia cresce, diventa sempre peggio. Mm. So we have to get in the habit, even in daily life, not just in meditation, of coming off the imagining mind. Quindi dobbiamo abituarci, non solo in meditazione, ma anche nella nostra vita quotidiana, a staccarci un po' da questa mente che immagina. Mm. Remember that we're only talking about things that are unwholesome for us. Vedete che stiamo solo parlando per adesso di cose che sono non salutari. Mm. We use the very same faculty to develop beauty in our minds. Ma usiamo la stessa facoltà per sviluppare invece la bellezza nella mente. Like the metta practice. Come per esempio la pratica di metta. Mm. So it's just making ourselves very much aware of the power of the mind to make us unhappy. Quindi è semplicemente sviluppare questa consapevolezza, diventare molto consapevoli del potere che ha la mente di renderci infelici. Then if we go to restlessness can just be of the mind. E poi passiamo all'irrequietezza, che può essere solo della mente. Now sometimes the energy in the mind is seemingly incontrollable. A volte questa energia nella mente ci pare incontrollabile. And the mind just continues to think and think and think, and there's a lot of energy. La mente continua a pensare, quindi c'è un sacco di energia. Mm. And it's sometimes really stupidaggine. It's going off and on. So when this happens, it's the same thing. You keep coming back, you see, keep coming back, and if you feel no restlessness in the body, go back to the breath. E quindi è sempre lo stesso meccanismo, insomma, si torna indietro, si torna dentro noi stessi, e se non c'è irrequietezza nel corpo, si va al respiro. Mm. Now remember that if the whole meditation hour, if the whole day is spent coming away from those thoughts, that's good practice. E quindi ricordatevi, se tutta l'ora di meditazione o tutto il giorno è passato solo a allontanarci da questa mente pensante, beh, questa è una buona pratica. And sometimes that is the practice, that's what we have to do. E a volte è proprio questa la pratica, è questo che dobbiamo fare. And so, we learn patience. E quindi impariamo la pazienza. You see, because as soon as you get angry with your mind, it puts even more energy in there. Perché se, se ci arrabbiamo con la nostra mente, beh, noi mettiamo, ci mettiamo ancora più energia. If you get fed up with the mind, before you know it, you're lost in thought. Invece se ci, come dire, ci stufiamo della nostra mente, ci accorgiamo poi che siamo ancora più persi nel pensiero. So it just takes this diligence, you see. Quindi ci vuole questa diligenza. So the final words of the Buddha, you see, appamado sampadita, appamado with diligence. E quindi queste sono le ultime parole del Buddha, no? Con diligenza. Strive diligently. Appunto, impegnatevi diligentemente. When it's the restlessness of the body, it's a little easier. Quando si tratta dell'irrequietezza del corpo, allora è un po' più facile. And you can what I personally do is I just keep going down the body from the head to the feet. Quindi quello che faccio io è che scorro il corpo con l'attenzione dalla testa ai piedi. This is some of you have done, you know, the Ubakin Goenka style. You will know that technique. Chi di voi ha fatto lo stile Goenka conosce questa tecnica. And you're just coming down the body, feeling, trying to find out where you feel restless. Quindi continuate a scendere nel corpo, a sentire, a percepire, a trovare i punti in cui vi sentite irrequieti. Sometimes it seems to be the whole body is like electric. A volte sembra che sia tutto il corpo che sia un po' elettrico. So you're just feeling, and then instead of coming up, you come back up again, feeling. Okay, quindi cominciate, niente, semplicemente scorrete il corpo e sentite tutte le percezioni. Poi anziché risalire dal corpo, cominciate di nuovo dall'alto, scendete. And this has an effect of, you know, just calming. Questo è un effetto calmante. And again, it's patience, you see. E di nuovo si tratta di essere pazienti. It's just allowing the body to manifest its restlessness, that's all. Quindi è solo permettere al corpo di manifestare la sua irrequietezza. Are you going to guide this technique sometimes? Come? In italiano. C'è la guida questa tecnica qualche volta? Is it a guide? No, he's asking if you can guide it. You can go. Oh, it's very simple. So like this body scan. Huh? You start here and you go down to there. Ma è molto semplice. Perché si comincia dalla testa e si arriva giù alla base. You know, your head, come down. Just keep feeling the body coming down. Semplicemente uno scende, si comincia dalla testa e poi va giù con l'attenzione e sente tutte le parti del corpo. Man mano che scende. And then there is these other things, shame and guilt, they make us feel very restless. Poi ci sono queste altre cose, no? La vergogna, il senso di colpa, questi ci fanno agitare molto. I presume the Buddha put them there rather than in aversion because of their effect of making us very restless. Io suppongo che il Buddha li abbia messi lì piuttosto che con l'avversione, proprio per questo effetto che hanno di farci sentire irrequieti. In the Pali, the two words give you the impression of restlessness. Nella lingua Pali queste parole danno proprio l'idea dell'irrequietezza. Udaccia cucuccia. Udaccia cucuccia. So you have the feel of restlessness. Quindi avete proprio questa percezione dell'irrequietezza. So now we come to what my teacher called our two very good friends. E adesso arriviamo a quello che il mio maestro chiamava i due grandi amici. Dullness and lethargy. Quindi questa torpore della mente e letargia. Questa mente opaca, diciamo. These are little voices saying what you need is a little rest. Queste sono piccole voci che vi dicono quello di cui hai bisogno è di un riposo, un riposino. Then you feel better. Poi ti sentirai meglio. So now we're still on the second day. Tomorrow some of you may feel a new energy, but usually it takes 3 days. So it's on the fourth day one feels a new energy. Quindi oggi siamo al secondo giorno, quindi forse domani comincerete a sentire una nuova energia, anche se di solito è il quarto giorno che c'è questa la rinnovata energia. Tomorrow we get up just a little earlier. Domani ci svegliamo un po' prima. And so there may be some more tiredness around. Quindi potrebbe esserci ancora un po' di stanchezza. But even so. Ma comunque. So tomorrow can also feel as bad as the first day. Quindi anche domani vi potreste sentire male come il primo giorno. But it's sort of slowly lifting our energy. Però si tratta di lentamente far salire la nostra energia. And because of our meditation, that energy is being purified. E grazie alla nostra meditazione questa energia viene purificata. So on the fourth day, really any tiredness, real tiredness we came with, has usually gone. Quindi quando si arriva al quarto giorno, la stanchezza con cui siamo arrivati di solito se n'è già andata. The tiredness just from the stress of ordinary daily living. Questa stanchezza che deriva dalla vita quotidiana, ordinaria. So, from the fourth day onwards, if you feel during the day this dullness or this tiredness, you must point to it as dullness and lethargy. Quindi dal quarto giorno in poi, quando sentite questa letargia, questa mente opaca, così la dovete indicare proprio come opacità della mente e letargia. Yes. Our job is to refuse to be annihilated. Quindi il nostro lavoro è proprio di rifiutarci di essere annichiliti. Our job is just to stay awake and feel the feelings, that's all. Il nostro lavoro è proprio di stare svegli e percepire questa sensazione. Yeah. Tutto lì. Now, this energy is like a whirlpool. It draws us down into oblivion. Questa energia è come fosse un mulinello che ci trascina giù nell'oblio. And oblivion is especially attractive. Questo oblio è attraente. Because particolarmente attraente. Sì, there's no suffering there. Perché lì non c'è sofferenza. Unfortunately, we wake up. Però sfortunatamente poi ci svegliamo. So it's a case of, you know, keep lifting the body. Quindi si tratta di continuare a tenere retto il corpo. And travel around the body. So in this case, I often use the technique of coming up the body. E quindi si tratta di viaggiare, diciamo, nel corpo, e in questo caso io suggerisco di salire lungo il corpo. And by keeping the attention moving, I keep myself awake. Quindi spostando continuamente l'attenzione, io tengo sveglia l'attenzione. When it's in the head like a dullness, you keep moving around inside. Quando è nella testa, come appunto questa sorta di torpore mentale, allora si continua a girare all'interno della mente con l'attenzione. And you're observing the process, you're observing what is happening in the body as feeling, in the mind as feeling. State osservando cosa sta succedendo, il processo nel corpo come sensazione e nella mente come sensazione. Now, such is our habit of being attracted to this oblivion that the knowing itself feels dull. Quindi siamo talmente abituati a perderci in questo oblio, o nel piacere di questo oblio, essere attratti, che anche la facoltà del conoscere sembra essere un po' offuscata. But if you keep going, you may be surprised to find that this knowing comes on like a light bulb. Ma se continuate a seguirla, a provare, vedrete che questo conoscere è come se si accendesse come una lampadina. So even though you're in this porridge, you're completely awake. Quindi anche se siete in questo porridge, intraducibile, siete completamente svegli. In questa polenta, per essere così. Ah, polenta. La cosa italiana. Polenta. Even in this body which feels so heavy, you're completely awake. Anche in questo corpo che sembra così pesante, siete comunque completamente svegli. So this is an important experience, because now you know the knowing is not the mind, the knowing is not the body. E questa è un'esperienza importante, perché adesso sapete che il conoscere non è la mente e il conoscere non è il corpo. Ah. And finally, there's this doubt, skeptical doubt. Infine c'è questo dubbio, il dubbio scettico. The Buddha doesn't want us to accept anything he says on belief. Buddha non vuole che accettiamo qualunque cosa che venga detto così per pura atto di fede. Yes, an act of faith, yes. Sì. Because in doing so we actually undermine our ability to investigate. Perché facendo così quello che stiamo facendo è indebolire la nostra capacità di investigare. Because I believe, why should I investigate? Siccome io ci credo, allora perché dovrei ricercare, investigare? We confuse belief with direct experience. Quindi noi confondiamo questo credere con l'esperienza diretta. But it's the investigation which actually leads us to our liberation. Ma è questa attività dell'investigazione che ci porterà alla liberazione. It's the insights which come through the investigation which liberate us from this delusion. Perché sono gli insights che derivano da questa attività di investigazione, di ricerca, che ci libereranno dalle nostre illusioni. And what is it that's deluded? E cos'è che è illuso? It's what's looking. È ciò che osserva. What's looking is actually deluded. Ciò che osserva è illuso. The problem with delusion is that you don't know you're deluded. Il problema con l'illusione è che tu non sai di essere illuso. If the Buddha did not tell us that there was, you know, anicca, dukkha, anatta or something like that, we wouldn't bother to look. Se il Buddha non ci avesse detto che ci sono, c'è anicca, dukkha, anatta, noi non ci prenderemmo neanche la briga di cercare, di guardare. Yeah. We'd be trying to work out a happy life and then wondering why we kept falling into holes. Noi cercheremo semplicemente di procurarci una vita felice e poi continueremo a domandarci perché continuiamo a cadere in questi nei buchi, diciamo. Even when we practice we keep falling into the holes, but at least now we know why. Anche adesso che pratichiamo continuiamo a cadere in questi buchi, ma almeno sappiamo il perché. So now this doubt is what is translated as a skeptical doubt. Quindi questo dubbio è tradotto come dubbio scettico. This doubt is driven by fear. Perché questo dubbio è spinto dalla paura. It's perhaps a fear of failure. Forse è una paura del fallimento. Or a fear of the unknown. Oppure una paura dello sconosciuto, dell'ignoto. Yes. I don't want to go there just in case something bad happens. Io lì non ci voglio andare nel caso in cui qualcosa di male possa accadere. And this, you know, people who suffer from skeptical doubt in ordinary daily life limit their lives greatly. E le persone che soffrono il dubbio scettico nella loro vita quotidiana si limitano molto nella loro vita. It's self-doubt, you see. È un dubbio di su se stessi. So, for instance, you apply for a job. Per esempio, fate domanda per un lavoro. Which you know you're well qualified and well experienced for. E sapete di avere le qualifiche, di esserne, avere la giusta esperienza. But something keeps telling you that you can't do it. You can't do it. You see, you can't do it. Ma c'è qualcosa che continua a dirvi non ce la farete, non ce la farete. Non puoi farcela. Before you can decide, the job's gone. E prima di decidervi il lavoro è già andato via, è già stato dato a qualcun altro. You meet somebody whom you have a great affinity with and you think this could be a really beautiful relationship. Conoscete qualcuno con cui c'è un'affinità e pensate che possa essere una buona relazione. But you don't know whether before you know it she's gone, he's gone. Però siete lì indecisi, ma non so, ma sì, ma no, e poi a un certo punto scoprite che già o lei o lui se n'è già andato. Sì. And this is a lack of faith, you see. E questo è una mancanza di fede. Of confidence. O di sicurezza. Yeah, it's better to translate sadda, the Pali word is confidence. È meglio tradurre questa parola Pali, sadda, in fiducia in se stessi. Yeah. And Often this means that you have to take a leap in the dark, as we said. E a volte questo significa che bisogna fare un salto nel buio. And it helps to get away from the idea of success and failure. Ed aiuto allontanarsi dall'idea di successo e fallimento. Because this is always to do with the idea of the ego, the self, you see. Perché questo è legato sempre a quest'idea di un sé, di un ego. You know, I am successful, I am a failure. Io sono una persona di successo, pure io sono un fallito. But if you think of life more as trial and error. Ma se vedete la vita più come un processo di tentativo ed errore. Then you try, you fail, okay, you try again. Allora uno prova, fallisce, vabbè, ci riprova. Even the Buddha, you see, when he was fully liberated, he decided to seek out his old companions to tell them about what he had discovered. Anche il Buddha, quando giunse alla piena illuminazione, cercò i suoi compagni per spiegare loro cosa aveva scoperto. He was inspired to help people achieve this liberation. Lui era ispirato a aiutare le persone a raggiungere questa liberazione. And on the way, one of the first people, the first person he meets is another ascetic. E per strada, quando si dirige verso i suoi vecchi compagni, la prima persona che incontra è un asceta. And the ascetic, when he sees him, says, "Oh, you know, you're shining, you're bright. You're obviously highly spiritually developed. Who is your teacher?" E questa scelta dice: "Ah, sei luminoso, sei splendente. Sicuramente avrai un alto livello di sviluppo spirituale. Chi è il tuo insegnante?" And the Buddha said, "I have no teacher. I am the fully self-enlightened one." E il Buddha dice: "Io non ho nessun insegnante, nessun maestro. Io sono colui che è pienamente autoilluminato." And the ascetic said, "Uh-huh." E se n'è andato. E se n'è andato. So the Buddha then thought, "This is not the way to teach." A quel punto il Buddha ha pensato, beh, questo non è il modo di insegnare. So when he meets his five companions. Quindi quando poi alla fine raggiunse i suoi cinque compagni. When they see him approach, they say, "Oh, this is that weak fellow who left us." Quando lo vedono avvicinarsi, dice, "Ah, questo è quella persona debole che ci ha lasciato." But they see there's something about him which attracts them. Però vedono qualcosa nel suo portamento che li attira. And by the time he arrives them, they've actually prepared him a seat. As if he's a teacher. Poi quando arriva da loro gli avevano già preparato un posto a sedere, come se lui fosse il loro maestro. So then he begins to explain what he called, you know, the Four Noble Truths, how suffering arises, how it passes away. Comincia a quel punto a spiegare cosa sono le quattro nobili verità, come la sofferenza nasce, come passa. And he keeps asking them, "Have you ever heard me speak like this before?" E continua a chiedere loro, "Mi avete mai sentito parlare così?" So he's inviting them to receive his information, you see. Quindi è come se li invitasse a ricevere le sue informazioni. And in that very morning, one of them enters the path of fruit. E proprio quel mattino uno di loro entra nel sentiero, nel frutto. They go out for some alms round. And then he begins to teach them again in the afternoon. E poi vanno a fare la questua, il giro delle offerte, e poi nel pomeriggio continua a insegnare. And he teaches them the doctrine of not self. E gli insegna la dottrina del non sé. And by evening they're all fully liberated. E entro la sera sono tutti pienamente liberati. They were lucky, eh? Erano fortunati. So that is for most of you just a revision of these five hindrances. Quindi questo era per la maggior parte di voi solo un ripasso dei cinque ostacoli. Yeah. Any technique which helps you maintain awareness of them is worthy of doing. qualsiasi tecnica che vi aiuti a essere consapevoli di questi cinque ostacoli è degna di essere perseguita. I can only hope my words have been of some assistance. Posso solo sperare che le mie parole siano state di un qualche aiuto. By your clever parrying the blows of Mara. How do you say that? By your what? By your clever combat with Mara, the evil one. Quindi con il vostro come dire, astuto modo di combattere la malvagità di Mara. Mm. You will overcome all his temptations. Riuscirete a superare tutte le sue tentazioni. And discover that freedom from suffering. E quindi scoprire la libertà dalla sofferenza. Sooner rather than later. E lo scoprirete prima piuttosto che poi. So, as usual, I